100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Torniamo sulla reazione della borsa e in particolare sui titoli bancari dopo l'accordo raggiunto dal nostro governo con Bruxelles su come gestire le famose sofferenze delle banche, ossia quei crediti che le banche non riavranno più indietro. Intendiamoci, l'accordo è più che positivo per il nostro paese perché a questo punto permetterà di iniziare un'operazione di svuotamento dalle banche dei crediti non più esigibili e tentativo di vendere, collocare questi crediti non più esigibili sul mercato. Che cosa allora non ha apprezzato la borsa? Beh, un'ipotesi molto forte circolata ieri tra le sale operative è che proprio l'accordo tra Roma e Bruxelles permetterà a questo punto di distinguere tra sofferenze, tra virgolette, buone, quindi con maggiori garanzie, e sofferenze invece cattive, con minori garanzie. Questo permetterà di distinguere tra banca e banca, ma soprattutto il rischio è, e su questo la borsa si è mossa, che alcune banche debbano, svalutando il valore che hanno ancora iscritto di alcune sofferenze, arrivare ad un aumento di capitale. È chiaro che il mercato non vede di buon occhio un ricorso all'aumento di capitale, anche perché il periodo non è così propizio per chiedere soldi al mercato, soprattutto se sei una banca. Certo, Mario Draghi, in quanto presidente della Banca Centrale Europea, ha detto che non chiederà un aumento patrimoniale a breve anche alle banche italiane. Questo dovrebbe dare maggiore respiro, ma i dubbi restano ed è probabile che alcuni titoli bancari resteranno sul lotto volante ancora per un po'. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Se la crisi dei migranti spinge l'Europa alla chiusura delle frontiere, la crisi delle banche italiane rischia di spingere i capitali al di fuori delle cassette di sicurezza e soprattutto dei conti correnti degli istituti di credito del paese. La situazione è grave soprattutto per la borsa. La bad bank versione light, cioè leggera, con poco esborso per lo Stato e nuovi costi a carico delle banche, non ha incontrato quel favore che sperava il governo, anche perché oggettivamente il provvedimento può interessare soprattutto le piccole banche, non quelle grandi che sanno ben gestire da soli i debiti in sofferenza. Senza una manovra per il recupero dei crediti incisiva e forte che acceleri la possibilità di recuperare le somme dovute, è difficile che le banche possano uscire da questo tunnel delle sofferenze e soprattutto dello smaltimento dei crediti inesigibili. Si accumulano troppo velocemente e più si accumulano più i titoli in borsa cadono, e più cadono i titoli più si rischia di accelerare quel trasferimento di conti verso l'estero. Basti pensare che secondo le cifre della stessa BCE, alla fine del novembre del 2015, ultimo dato disponibile, il passivo, cioè il deficit di capitali tra l'ingresso e l'uscita dall'Italia, è di 229 miliardi di euro, un record storico per il paese. Basti pensare che nel 2011 ci trovavamo a poco più di 4 milioni di attivo. Insomma, una vera e propria crisi che preoccupa le banche e deve preoccupare soprattutto il governo. Deve tornare la fiducia non solo sulle banche, ma sul sistema Italia. Quindi è urgente fare presto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.